Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono emozionato perché mi trovo in uno dei posti più belli d'Italia. Le colline di Firenze, a nord di Firenze, sono nel comune di Settignano e voglio portarvi a visitare una delle meravigliose ville che costellano i colli di Firenze, da queste parti, cioè vicino a Fiesole. Andremo a vedere la villa I Tatti, che oggi appartiene a un'università americana, la Harvard University, un'università di Boston, perché il suo antico proprietario era stato studente della Harvard University e morendo aveva deciso di lasciare la sua villa e soprattutto la sua meravigliosa collezione d'arte e la sua meravigliosa biblioteca. Chi è questo personaggio? Questo personaggio era Bernard Berenson, forse il più grande storico dell'arte vissuto nel Novecento. Un lituano che si era trasferito negli Stati Uniti, aveva studiato a Boston e poi, grazie a una borsa di studio di Isabella Stewart Garden, la grande mecenate di Boston di quegli anni, era venuto in Italia, aveva fatto a tappeto tutta l'Italia, tutta l'Europa ed era diventato il massimo conoscitore dei dipinti rinascimentali. Era in grado di distinguere un dipinto a 5 metri. Questo lo portò a diventare ricchissimo perché gli antiquari che rifornivano i ricchi americani di dipinti rinascimentali italiani si servivano di lui e lui naturalmente con i suoi espertise e il suo occhio infallibile divenne ricchissimo e investì gran parte dei suoi denari, delle sue sostanze in questa meravigliosa villa, che era un'antica villa del Cinquecento che lui fece mettere a posto da una serie di architetti straordinari della primo Novecento, fece fare i giardini per esempio e soprattutto raccolse quello che noi, prendendo appuntamento, possiamo andare a vedere, cioè la sua biblioteca di cui lui era fierissimo, ma soprattutto la collezione d'arte, perché qualche dipinto lo comperò per sé. E pensate, Berenson riuscì a comperare opere di Giotto, per esempio, riuscì a comperare opere di Gentile da Fabriano, comperò un meraviglioso sassetto all'est di San Francisco, uno dei quadri più interessanti del primo Rinascimento italiano, e poi Luca Signorelli, Domenico Veneziano. Insomma, è un'esperienza particolare, anche perché può capitare che intorno alle 5, essendo americani, tutto si fermi e nel bel mezzo della visita vi offrono un bel tè. Quindi concludiamo la nostra visita con un tè alla Villa I Tatti di Bernard Berenson a Settignano.